ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Trump è positivo al Covid, ma un altro virus fa paura e si chiama QAnon. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. QAnon conspiracy theory is spreading around the world like a pandemic. I don't know much about the movement other than I understand they like me very much, which I appreciate. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima puntata della settimana di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. E a dettare la grammatica musicale anche quest'oggi c'è Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, ma siamo anche sui social. La pagina Facebook è Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24. Su Twitter cercateci Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. La pagina che vi proponiamo quest'oggi qui a Nessun Luogo è Lontano prende le mosse naturalmente dalla notizia che sta rimbalzando dalle prime ore di questa mattina su tutti i grandi network internazionali. Donald Trump è positivo al Covid-19. Con quali conseguenze? Con quali conseguenze non soltanto per la campagna elettorale, ma anche per il qui e ora della Casa Bianca? C'è un gran lavoro tra gli staff sanitari per cercare di capire chi ha contagiato il presidente e quali altri membri di altissimo rango potrebbero essere stati contagiati. Sul chi va là, evidentemente, anche lo sfidante democratico Joe Biden, che pur a distanza di alcuni metri ha sostato per ben 96 minuti in quel auditorium che ha offerto il primo dibattito televisivo statunitense. Ma c'è un altro virus che proveremo a raccontarvi quest'oggi qui a Nessun Luogo è Lontano, che è una strana, bizzarra per molti e invece particolarmente seducente per altri, teoria del complotto che ha preso le mosse da internet. Negli anni si è corroborata, è diventata più forte e sostanzialmente racconta di questa lotta tra il Deep State e il Salvatore. E il Deep State sarebbe un strano apparato nascosto che permea l'amministrazione statunitense, fatto salvo le forze armate, ma che comprende anche celebrità di Hollywood contro le quali Donald Trump sta lottando. Il tutto condito da una serie di immaginifiche visioni e teorie complottiste che parlano di satanismo, di pedofilia, di bunker sotterranei nei quali avvengono le peggiori nefandezze. Com'è possibile che tutto ciò, pensate, potrebbe irrompere addirittura al Congresso con alcuni candidati che si sono dichiarati seguaci di QAnon? 349-238-6666 e noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Il primo, sempre caldissimo, ci fa tornare in Nagorno-Karabakh perché l'Unione Europea ha annunciato oggi aiuti umanitari di emergenza alle popolazioni civili che sono state colpite su entrambi i fronti della linea di contatto che separa gli armeni dagli azeri. Finanziamento iniziale 500.000 euro serve per aiutare i partner umanitari della Unione Europea, come per esempio il Comitato Internazionale di Croce Rossa, per poi fornire aiuti immediati. Questo si legge in una nota rilasciata dalla Commissione Europea. Nel frattempo l'Armenia si è detta pronta a lavorare con Francia, Russia e Stati Uniti, che presiedono il gruppo OSCE di mediatori del conflitto e che hanno cercato in qualche modo di porre uno stop, almeno verbalmente, a quello che sta accadendo. Nel frattempo, manco a dirlo, Ankara si dice pronta a appoggiare l'Azerbaigian e ha dichiarato che l'Azerbaigian non terminerà il conflitto fino a che non si riapproprierà del territorio che le spetta secondo il diritto internazionale. Solito drammatico balletto di cifre. Oggi sono state registrate 54 vittime militari tra le truppe sostenute da Yerevan, che portano il bilancio totale a 158 soldati caduti, quindi lato armeno, numeri molto molto diversi, per questo dicevo balletto drammatico, rispetto alle 2500 tra morti e feriti armeni invece che sono stati riportati da Baku. E poi molto interessante, lo avete sentito anche dal GR, c'è la presa di posizione dell'Unione Europea sul dossier bielorusso con una serie di sanzioni con congelamento di beni e sanzioni per circa 40 nomi dell'establishment bielorusso. Non compare però Alexander Lukashenko. Ieri vi avevamo anche raccontato di come questo Consiglio europeo dovesse anche prendere delle decisioni riguardo alla arrogante presenza turca nel Mediterraneo orientale, che ricordiamolo ha leso non soltanto gli interessi greci ma anche quelli italiani. Ebbene, dopo diverse ore di colloqui nella notte, i leader hanno concordato una dichiarazione di sostegno a Cipro e alla Grecia e hanno lanciato un severo avvertimento alla Turchia, che potrebbe affrontare misure punitive se continuerà il suo lavoro di perforazione sottomarina, aprendo però, lo si legge nella nota, alla possibilità di stilare un'agenda politica Unione Europea-Turchia con incentivi commerciali e doganali per Ankara. La risposta di Erdogan, molto semplice, ha detto che l'Unione Europea si è trasformata in una struttura inefficace, superficiale e senza orizzonte, diventando schiava della presunzione di Grecia e Cipro. Questo i nostri dossier internazionali, sono i temi sui quali stiamo lavorando e che diventeranno puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però parliamo della più folle, delirante, ma per molti vera teoria del complotto che circola da alcuni anni in rete. Si chiama QAnon. Si chiama QAnon, una frangia cospirazionista che alcuni analisti politici hanno definito una religione online. Parlano di una cospirazione, di un disegno nascosto per cui Donald Trump starebbe aspettando una battaglia con una setta di politici democratici, milionari e celebrità di Hollywood. They do supposedly like me. Credo di piacermi. They also would like to see. E so che vorrebbero che venissero eliminati certi problemi degli Stati Uniti. Sono Marjorie Greene e voglio diffondere questo messaggio. Salviamo l'America, fermiamo il socialismo e la Cina. Abbiamo questa opportunità, scardinare questa rete sotterranea globale, e credo che abbiamo il presidente giusto per farlo. Le teorie cospirazioniste nascondono un pericolo. A volte spingono le persone alla violenza e a compiere atti terroristici. È la tua ultima occasione. Se rinunci, non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie. E vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Questi 90 secondi, il racconto firmato da Valeria Bernardi e Valentina Ternullo, che prova a introdurci, dovrei dire, nella tana del bianconiglio, perché è una delle espressioni che viene utilizzata dai seguaci di QAnon, o QAnon anzi dovrei dire. 349-238-6666. Al di là dei primi messaggi che stigmatizzano il comportamento e le risposte di Ankara rispetto alla presa di posizione europea, vedo già un bel numero di messaggi che commentano questa complessa, a volte disarticolata, contraddittoria teoria cospirazionista. Oggi proveremo a indagare il suo potere, perché si è diffusa, attenzione, anche in Germania e in Italia. Se andate a vedere i dati, la pagina Facebook conta parecchie migliaia di mi piace e mette insieme una serie di teorie, ripeto, per la maggior parte di noi forse assolutamente strampalate, ma altre volte infarcite con delle verosimiglianze che rendono evidentemente molto molto seducente l'abbracciare questa teoria. Avremo due voci straordinarie, due grandissimi giornalisti americani, due penne formidabili che hanno studiato da dentro questo fenomeno, e poi con un gradito ospite proveremo a trarre le fila di questo lo definirei quasi un campo minato, avventurarsi in questo territorio che è quasi tutto virtuale, ma che ha avuto anche delle risultanze fisiche anche drammatiche, sarà un bel percorso. 349-238-6666, qualcuno cita un articolo di Internazionale di un paio di settimane fa, terrificante, scrive un ascoltatore, l'articolo era a firma di Wuming, Antonio, QAnon è lo specchio della follia al quale questo presidente ha portato gli Stati Uniti, qualcuno suggerisce di guardarsi The Social Dilemma, il documentario prodotto da Netflix, per capire come un fenomeno del genere si diffonda e possa fare proseliti. E qualcuno cita Bill Gates, vaccini, microchip, eccetera, occhio che se facciamo un giro sul web di complottisti ne abbiamo una marea, beh, su questo non ci piove. D'altra parte alcuni dei nomi che fate voi nei messaggi, gentili ascoltatrici e ascoltatori, sono istituzionalizzati proprio in questa teoria del complotto. Proviamo allora a riassumerla in 60 secondi, sentite. È una teoria del complotto? È un'ideologia? È uno strumento di consenso? È una setta? Secondo esperti di comunicazione e debunker che hanno assistito alla sua incredibile ascesa nell'arco di pochi mesi, QAnon è tutto questo e anche molto di più. È diventato un ombrello sotto il quale si raccolgono tutte le cospirazioni possibili e allo stesso tempo una tendenza politica con la quale fare i conti alle prossime elezioni americane. Tutto nasce nell'ottobre 2018, quando qualcuno inizia a postare sul forum 4chan enigmatici commenti firmandosi QAnon. QAnon dice di essere un altissimo funzionario dotato dell'accesso ai massimi livelli di segretezza del governo. Negli anni QAnon ha appreso la verità. Il sistema di potere americano e mondiale è governato in segreto da un'elite di satanisti pedofili di cui fanno parte Obama e Biden, ma anche la famiglia Bush e perfino Beyoncé e Justin Bieber. Donald Trump però ha scoperto tutto e sta lavorando dietro le quinte per scardinare questo sistema di potere e rinchiudere i responsabili a Guantanamo. Espressioni in codice come la tempesta, il momento della riscossa, e il grande risveglio, l'instaurazione di una forma di governo giusta e senza paura, hanno travalicato i forum online per diventare bandiere con la lettera Q, esposte ai raduni politici di estrema destra e appelli rivolti ai media. Così, mentre i seguaci di QAnon si scervellano a decifrare i messaggi del loro eroe e aspettano la tempesta come una chiamata alle armi, tutte le principali agenzie di sicurezza americane hanno innalzato il livello di allarme. L'FBI teme che l'effetto QAnon possa provocare scontri, attentati e atti terroristici. E intanto, mentre nelle sedi dell'intelligence e della sicurezza statunitense si fanno gli scongiuri perché questa tempesta non avvenga, un'altra tempesta sta sconvolgendo la Casa Bianca, la positività del presidente in carica Donald Trump al Covid-19. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Mario Del Piero, insegna storia della politica estera americana a Sciences Po, Parigi. Professor Del Piero, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, professore, intanto le chiederei un primo commento sulla notizia della positività di Donald Trump, perché al di là, come dire, degli effetti, gli esiti sulla campagna elettorale, molto probabilmente il confronto con Biden fisicamente, il prossimo programmato non ci sarà, forse sarà qualcosa online, l'abbiamo sentito dal GR, c'è però un aspetto ben sottolineato dal The Atlantic che dice: attenzione, perché lo stato di salute del presidente americano è una questione anche di sicurezza nazionale, io aggiungerei internazionale. Lo stato di salute del presidente Donald Trump, lo stiamo vedendo in queste ore, muove i mercati e, senza che noi lo sappiamo, sta muovendo i livelli di allerta delle grandi potenze. Parlo di sistemi di armamento. Com'è possibile che si è arrivati a questo punto, a questa, io aggiungerei, leggerezza nell'affrontare la pandemia e minimizzarla, che ha spaventato molti, però a questo punto, quando è l'uomo più potente del mondo a essere toccato, c'è l'allerta vera e propria? Che cosa ne pensa, professor Del Piero? Ma in realtà credo che la catena di successione sia molto ben definita nel caso, diciamo così, di un presidente incapacitato a svolgere le sue funzioni. Sì. Quindi, ed è stata anche attivata questa catena di successione temporaneamente per delle ore, per delle piccole operazioni con George Bush, ad esempio, sì. Junior. Quindi, come dire, il pericolo per la sicurezza o il fatto che gli Stati Uniti siano fuori controllo non mi sembra aver ragione d'essere. È piuttosto il problema grossissimo in questo momento è che tutto ciò avviene in un ciclo elettorale che si sta già svolgendo, con milioni di americani che hanno già votato, con 50 stati che hanno regole diverse rispetto alle schede elettorali, a come certificarle e così via. Ecco, un presidente incapacitato, oddio ce ne scampi, un presidente che dovesse essere vittima del Covid in campagna elettorale prima del voto apre letteralmente un vaso di Pandora, perché non si capisce bene cosa possa succedere a quel punto. Nel senso che ci sono delle regole del Partito Repubblicano su come sostituire il candidato e così via, ma la data è talmente vicina, dicevo, si sta già votando e milioni di americani hanno già votato, i tempi tra il voto e l'insediamento definito da emendamento costituzionale al 20 gennaio, a mezzogiorno del 20 gennaio successivo al voto, i tempi sono molto molto stretti, ci sono tutta una serie di procedure, di formalità da espletare. Ecco, tutto ciò apre un quadro estremamente preoccupante e una ragione ulteriore ovviamente per sperare che Trump si rimetta rapidamente. E peraltro gli auguri gli sono arrivati anche via Twitter dallo sfidante Joe Biden e dalla moglie, che le ha augurato entrambi alla coppia presidenziale una pronta guarigione e di rimettersi in fretta. Oggi, professore, in realtà noi parliamo di un altro virus che ha avuto una diffusione rapida tanto quanto il Covid-19, i cui esiti, le cui conseguenze forse sono molto sottovalutate anche dalla classe giornalistica, sicuramente da quella politica che in alcuni casi invece ha tentato di cavalcarla. Il fenomeno si chiama QAnon, lo abbiamo raccontato in circa 60 secondi. Prima ricordavo che a volte ha avuto anche esiti fisici, penso all'attacco di qualche mese fa in Germania, era un seguace di QAnon che ha imbracciato una pistola, penso a quella pizzeria negli Stati Uniti dove secondo i seguaci di QAnon si svolgevano riti satanici, pedofilia varia, la pizzeria di Washington, il Comet Ping Pong, il proprietario, un alfiere delle comunità gay e lesbo che è stato minacciato di morte. Insomma, questa teoria complottista che gli ascoltatori, la maggior parte di loro, bollano come, leggo testualmente, teatrino per minus abens. Attenzione però a sottovalutarla, perché può avere degli esiti importanti. Lei, in un recente saggio che è stato pubblicato sul sito di treccani.it, sottolineava alcuni fattori. Allora, da un lato la estrema polarizzazione della politica statunitense, il ruolo della religione negli Stati Uniti è una vera e propria storia del complottismo, ma tutto ciò è sufficiente per avere potenzialmente esponenti al Congresso affiliati o vicini a QAnon, perché questo è uno dei rischi. Ci sono più o meno una quindicina di candidati repubblicani che hanno, diciamo così, una qualche affiliazione con QAnon, o hanno addirittura preso in un paio di casi posizioni di aperto sostegno a questa tesi, a questa teoria. È chiaro che tutto quel che lei ricordava, insomma, la religione è una tradizione molto forte negli Stati Uniti di grandi risvegli religiosi, spesso centrata su una contrapposizione tra il popolo nazionalista e le élite corrotte, cosmopolite, che mettono in discussione, diciamo così, la natura della nazione eletta, della nuova Israele, che sarebbero gli Stati Uniti stessi. Ecco, tutti questi elementi sono lì, ma oggi vengono ovviamente lubrificati e veicolati attraverso forme di comunicazione completamente nuove, sappiamo bene, che hanno una capacità di diffusione orizzontale estrema, che tendono a contestare, a mettere in discussione l'autorità delle forme del sapere nelle loro molteplici manifestazioni, incluse quelle del sapere giornalistico tradizionale. Di conseguenza il New York Times e l'ultimo dei giornaletti online acquisiscono sostanzialmente lo stesso valore come fonte giornalistica. C'è anche questa dimensione qui. Lo ricordava anche lei, uno scontro politico estremamente polarizzato che genera delegittimazione reciproca, lo abbiamo visto nelle convention dei due partiti, entrambi hanno presentato l'avversario non come un avversario ma come un nemico esistenziale, un pericolo per gli Stati Uniti e per la loro democrazia, quindi questo processo di delegittimazione porta a rappresentare l'avversario come il male, un male assoluto, e QAnon rappresenta l'avversario come incarnazione del male anche nella sua dimensione, no, satanico-pedofila, perché poi il male trova un'incarnazione fisica di nuovo in un'immagine religiosa forte, che è quella del diavolo. Peraltro, con la descrizione di queste liturgie benefiche che sarebbero state compiute, Hillary Clinton presente, che addirittura si sarebbe filmata nell'uccidere bambini, nel seviziarli, nel bere il sangue dei neonati, insomma cose veramente da horror movie di serie C o Z, se casomai esistessero. Professore Del Pero, lo ricordo, esperto di Stati Uniti, insegna storia della politica estera americana a Sciences Po Parigi, le faccio sentire la voce di David Newhart, è un saggista, uno scrittore, un blogger statunitense molto seguito, è una firma molto molto autorevole, ha scritto un magnifico libro sull'ascesa dell'alt-right, l'alternative right negli Stati Uniti, il suo ultimo libro invece, guarda caso, Red Pill, Blue Pill, cioè pillola rossa o pillola blu, e qua è una citazione chiara che abbiamo fatto anche noi a Matrix, quel pregevole film, come contrattaccare le teorie cospirazioniste che ci stanno uccidendo, è uscito nel 2020 per Prometheus negli Stati Uniti. A lui Antonio Tale ha chiesto se è stato sorpreso dalla diffusione, dall'ascesa così rapida dei QAnon, oppure c'è qualcosa che fermentava da tempo nella cultura americana. Ascoltiamo insieme. Non posso dire di essere stato colto di sorpresa, perché mi occupo di questo tipo di teorie cospirazioniste da molto tempo e ho assistito progressivamente alla crescita massiccia di questa specie di universo alternativo che queste persone si sono create. Però non posso neanche dire di aver previsto questa specie di super teoria che assorbe e comprende tutte le altre teorie e che è davvero diventata una sorta di setta molto diffusa. Tuttavia, l'architettura di QAnon nel suo complesso è molto familiare. In particolare, l'idea che il mondo sia governato da una cerchia ristretta e segreta di cospiratori è in circolazione da molto, molto tempo. Di fatto, QAnon raggruppa tutte le teorie complottiste precedenti e le mette a sistema. Ma la questione è che una volta che inizi a credere ad una di queste teorie, poi finisci col credere anche alle altre. È molto raro trovarsi di fronte a individui che sostengono una sola di queste idee. Una volta che si è dentro, si accede ad una costellazione molto più ampia. In definitiva, QAnon è la logica conseguenza di tutto questo universo alternativo. La voce di David Newhart, giornalista, saggista, è un freelance, è un indipendente, ha scritto libri sull'alt-right, sui complotti, sulle teorie che permeano, a sentire le sue parole, una parte della cultura statunitense. 349-238-6666, un ascoltatore ha ammesso che ci fosse un deep state, esso si è rapidamente adattato e coagulato intorno a Trump. Scrive l'ascoltatore, è evidente che hanno trovato interesse comune. Per una volta non sono d'accordo con te, scrive, stai dando risonanza a una trovata pro-Trump. E io credo, gentile ascoltatore, che la notizia ci sia tutta e c'è anche un allarme, un pericolo che viene lanciato dai servizi di intelligence statunitensi proprio in vista della tornata elettorale. Lo stesso Trump ha nominato, ha ammesso, non so chi siano, l'avete già sentita altre volte questa frase, non so chi siano ma è evidente che mi amano, questo ha detto di QAnon. E poi vengono accusati star di Hollywood, lo avete sentito dal nostro breve ritratto, vengono accusati gente come Soros, manco a dirlo, Bill Gates, insomma è un fenomeno che va sicuramente raccontato e analizzato, e le quasi decine di migliaia di persone che hanno messo mi piace sulla pagina Facebook di QAnon in italiano dimostrano, così come i cartelli presentati a alcune manifestazioni in piazza in Germania pochi mesi fa, dimostrano che non va sottovalutato il fenomeno. Siamo col professor Mario Del Pero di Sciences Po, a cui chiedo di pazientare, andiamo a sentire come stanno reagendo le borse a tutto ciò, poi apriamo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati. QAnon, Cabal, Beyoncé, Tom Hanks, Celine Dion, ma anche Obama, la tana del bianconiglio. Non sono impazzito, gentili ascoltatrici e ascoltatori, sto semplicemente cercando di riassumere quelle che sono le parole più ricorrenti, a volte simboliche, utilizzate dai seguaci di QAnon, che molti ascoltatori stanno bollando come una una dimostrazione di poca intelligenza, ecco, sto cercando di ammorbidire i messaggi che stanno arrivando, ma ripeto, non bisogna assolutamente valutare questo fenomeno che è uscito anche dagli Stati Uniti, che sto provando ad analizzare grazie anche al professor Mario Del Pero, che insegna storia della politica estera americana Sciences Po Parigi, ma anche con la voce di David Newhart, giornalista saggista americano specializzato proprio in teorie del complotto. Allora, fra le varie citazioni ce ne sono alcune, quella di Matrix per esempio, ma anche atmosfere alla Blade Runner, su tutti evidentemente il grandissimo scrittore Philip K. Dick. Ma in che misura queste teorie complottiste traggono linfa vitale proprio da grandi romanzi, qualcosa che per noi è da custodire gelosamente sul comodino a fianco al letto, di cui cibarsi magari alla sera, ma poi finisce lì, è fiction. Sentite cosa dice David Newhart. Yeah, I mean in some regards, you know, you can see it growing out of... Sì, certo. In una certa misura si può vedere la crescita di questo universo alternativo attraverso le creazioni di uno scrittore come Philip K. Dick, l'autore di Blade Runner, che ricorre nelle mie ricerche e che cito spesso nel mio libro. L'intera opera di Philip K. Dick si gioca sulla costruzione di universi alternativi e molte componenti del cospirazionismo derivano direttamente dalla cultura pop, rielaborati però senza un vero pensiero dietro. Philip K. Dick aveva un approccio molto sofisticato e sapeva che il complottismo ti può portare giù nella tana del coniglio bianco, ma che questa tana si rivela un vicolo cieco. Ma non è un caso che Alex Jones, lo pseudo giornalista fondatore del sito complottista di grande successo InfoWars, citi spesso il film Un oscuro scrutare, tratto da un romanzo di Dick, perché coincide con le paranoie complottiste che si trovano spesso nel mondo di queste sette come QAnon. Questa è la voce di David Newhart, ancora una volta. Ci sono tanti messaggi al 349-238-6666. Vorrei però tornare a Sciences Po a Parigi con la voce del professor Mario Del Pero per capire come, secondo lei, innanzitutto se QAnon può entrare ancora di più nella politica americana, e secondo, o meglio, B, se la politica americana ha gli anticorpi per questo pericoloso virus. Allora, parto dalla seconda domanda, nel senso che gli anticorpi secondo me sono molto molto indeboliti, ne abbiamo parlato in più occasioni anche con lei, la polarizzazione è il tratto distintivo, polarizzazione politica, culturale, sociale, geografica dell'America d'oggi, ed è una frattura che taglia l'America, spacca gli Stati Uniti in due campi contrapposti, dicevo prima, che ormai non si riconoscono più. Diritto di cittadinanza, diciamo così, non riconoscono la legittimità dell'avversario, e tutto ciò indebolisce la democrazia statunitense, la rende molto poco governabile, perché poi per governare gli Stati Uniti sarebbe bisogno di mediazione e compromesso, un sistema presidenzialismo debole, diffuso, poteri e pesi e contrappesi, poteri divisi, sistema federale, è ingovernabile se crea le situazioni che abbiamo visto, e credo che Trump in una certa misura sia il cascato, il portato di tutto ciò, quindi credo che gli anticorpi oggi siano deboli, un'America in sofferenza, un'America lacerata, un'America divisa. QAnon per sé forse paradossalmente ha già scavallato, diciamo così, il picco di influenza, perché se andate a rivedere i primi messaggi di Mr. Q erano messaggi articolati, sofisticati, in una certa misura credibili per rivendicare un ruolo importante, diciamo così, nel deep state. Dopodiché, come sempre accade, si sono proliferati i Q e la credibilità iniziale è un po' svanita. Però QAnon segue il Pizzagate, che segue la vicenda del certificato di nascita di Obama, momento un po' anche di nascita dell'ascesa politica di Trump nel 2011, e quindi è immaginabile che se QAnon muore, diciamo così, finisce su un binario morto, poi generi mille altri mostri analoghi, perché viviamo in un'epoca, ahimè, che è molto predisposta alla diffusione di queste teorie cospirative, e con tutti i rischi e i pericoli che ne conseguono, perché il giovane papà di due bambine terrorizzate da questa setta, da questa cabal pedofila satanista, che super armato si è recato alla pizzeria di Washington cercando di fare una strage, bloccata all'ultimo minuto, poteva fare una strage per l'appunto, ed era mosso, abbiamo visto poi nelle dichiarazioni successive nel processo, sì, dalla semplice volontà di proteggere la sua famiglia. Questo è l'aspetto forse più grottesco, più plastico. Il mostro si materializza dalla rete, poche parole, alcuni messaggi apparentemente innocui, forse seducenti, e poi gli episodi di cronaca, facevo riferimento proprio a questi a inizio trasmissione. Grazie mille intanto professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi. Buona giornata professore, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Allora, un po' di messaggi al 349-238-6666. Sono tanti, gli americani sono pazzi, scrive un ascoltatore, si stanno facendo manipolare, ovviamente tutto un piano dei savi di Sion per dominare il mondo indisturbati, così anche qualche ascoltatore si appoggia al cortocircuito del complottismo. Allora, vi faccio sentire adesso un'altra voce molto autorevole, lei è Adrien Lafrance, caporedattore della rivista The Atlantic. Qual è l'identikit di un seguace di QAnon? Perché l'ultima volta che il mostro si è materializzato era un padre di famiglia, forse legittimamente spaventato dalle voci che ascoltava, da quello che leggeva, aveva a cuore la tutela della sua famiglia. Ma chi è che legge e crede soprattutto in QAnon? Sentite Adrien Lafrance, caporedattrice della rivista The Atlantic. È una bella domanda e penso che sia davvero difficile rispondere, perché non esiste una sorta di processo di iscrizione o un registro globale dei seguaci di QAnon. Quindi non lo possiamo sapere con certezza. Qualche mese fa avrei potuto dire che i seguaci di Q sono tendenzialmente bianchi sulla sessantina e vicini al pensionamento. Questi fanno certamente parte del gruppo, ma ora stiamo assistendo alla diffusione del fenomeno su altre piattaforme social. In particolare, c'è un numero sempre crescente di giovani mamme su Instagram che diffondono le idee di Q. Penso quindi che se da un lato sia possibile delineare profili plausibili rispetto ad alcuni dati demografici, rimane infatti un movimento prevalentemente bianco. Dall'altro lato, vista la veloce diffusione, credo si possano anche incontrare sorprese nel tentativo di inquadrare i seguaci di QAnon. Si tratta infatti di un fenomeno in continua crescita e cambiamento. Questa è la voce di Adrien Lafrance, caporedattrice della rivista The Atlantic, che per molti mesi, un anno e mezzo, si è dedicata allo studio e all'indagare questo strano fenomeno, facendolo dal di dentro e cercando di parlare con questi adepti e capire esattamente che cosa pensassero. In questa puntata di Nessun Luogo è Lontano proviamo in punta di piedi di affrontare questa foresta, che allo stesso tempo è un luogo oscuro ma anche un campo minato, per conoscere quello che il professor Del Pero ha chiamato il mostro. Si chiama QAnon e tra pochissimo, subito dopo la viabilità, se avete coraggio, state con noi. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presento. Promo 24. Piemonte bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. Nessun luogo è lontano. Buona giornata, ancora una volta ben ritrovati. Se avete accettato, ascoltatrici e ascoltatori, di farvi prendere per mano e attraversare questa foresta che è allo stesso tempo luogo oscuro e campo minato, QAnon, una delle più seducenti e diffuse, pervasive teorie del complotto che sia mai scaturita dai meandri della rete e che ha avuto anche risvolti concreti, plastici, molto molto drammatici. Stiamo cercando di analizzarla, lo facciamo con David Newhart, giornalista, saggista, scrittore statunitense, con Adriana LaFrance, caporedattrice della rivista The Atlantic, che ha pubblicato un superbo reportage proprio su QAnon. L'abbiamo fatto col professor Mario Del Pero di Sciences Po, insomma giornalisti, analisti, docenti, anche se qualcuno scrive che nella società di oggi ci vorrebbero antropologi oltre a sociologi e politologi. Sono società quelle in cui viviamo, scrive l'ascoltatore, sempre più inclusive ma al tempo stesso ineguali, che hanno bisogno di capri espiatori per l'aggressività latente. Più si alza l'asticella del politicamente corretto, più diventeranno estreme le manifestazioni di chi non sa o non vuole dominarla. Così un ascoltatore, che è uno di quelli più affezionati, come sempre, come spesso è, molto molto lucido. Invece mi fa sorridere, ma non me ne voglia, l'ascoltatore o ascoltatrice che scrive: quindi Epstein non esiste, caso Epstein, lo sapete, è uno dei cortocircuiti stranissimi della teoria del complotto di QAnon, perché la persona che era accusata di incredibili nefandezze, morta poi misteriosamente, in realtà a ben vedere era anche grande amico di Donald Trump, il quale Donald Trump, se non erro, nel 2002 in una dichiarazione pubblica a una televisione di cui non ricordo, ma se volete vado a cercare la citazione esatta, fece un plauso proprio a Epstein e alle sue frequentazioni di donne giovani e belle. Dice come se la godeva, bella la vita mondana di Epstein. Quindi a questo punto, se Trump combatte contro il Deep State di cui Epstein questa lobby satanica, pedofila, eccetera, qua evidentemente c'è un cortocircuito. L'ascoltatore risponde in questo momento in diretta con una frase che non posso dire, ma dimostra di non avere assolutamente argomenti. Bene, contento lei. Argomenti invece ne ha parecchi Adrien LaFrance, caporedattore della rivista The Atlantic. Perché il fenomeno nasce negli Stati Uniti e come ha fatto in pochissimo tempo a diffondersi anche in Europa, come Germania, Francia e Italia? Sentite. L'essere umano ha sempre creduto nelle teorie del complotto, è una sorta di tendenza quasi naturale. Le persone che si percepiscono come vittime sono ovviamente più propense a credere nelle teorie del complotto, come quelle persone che sono anti-establishment. Ci sono quindi vari profili da esaminare per determinare chi potrebbe essere più propenso a credere nelle diverse teorie complottiste. Il perché invece tutto questo sia diventato un fenomeno globale ha molto a che fare con la realtà iperconnessa nella quale viviamo. 20 anni fa non sarebbe stato possibile a nessuna idea di diffondersi con la velocità e la scala delle teorie di QAnon. La natura dei social media e il modo in cui sono costruiti per fungere da cassa di risonanza rende molto facile la pubblicazione di contenuti per chiunque. Per non parlare del modo in cui gli algoritmi su Facebook e altri siti incentivano le reazioni emotive. Tutto ciò crea le condizioni per una teoria del complotto di diffondersi rapidamente su scala globale. La domanda interessante è anche capire perché le persone al di fuori degli Stati Uniti sono attratte da Donald Trump. Forse Trump è in grado di toccare quelle corde capaci di creare la stessa soddisfazione spirituale. Factors that make it enticing to people who want things to be chaotic in the United States. La voce, il commento di Adrien LaFrance, caporedattore di The Atlantic, una lunga inchiesta, un lungo reportage proprio su QAnon. Torno alla voce invece di David Newhart, perché è venuto il momento di capire quanti sono i politici americani che si riconoscono in QAnon e poi sono davvero sinceri, ma ci credono davvero la tana del bianconiglio a complotti satanici, a strane liturgie e riti che vengono fatte nel sotterraneo della pizzeria di Washington D.C. Sentite Newhart. E poi torniamo ai vostri messaggi al 349-238-6666. Da quello che so, al momento ci sono 23 candidati al Congresso degli Stati Uniti che in una maniera o nell'altra hanno abbracciato o diffuso la teoria complottista di QAnon. Alcuni di loro hanno poi fatto una parziale marcia indietro dopo aver vinto le elezioni. Penso ad un candidato del Delaware, ma oggi al Senato americano siedono almeno due parlamentari repubblicani, uno del Delaware e uno dell'Oregon, legati a QAnon. E in Georgia c'è una candidata repubblicana, Marjorie Taylor Greene, che vincerà sicuramente la prossima tornata e che sostiene in maniera esplicita QAnon. In generale, nell'ultimo periodo il Partito Repubblicano si è dimostrato molto aperto alle teorie complottiste. Qui, nello stato di Washington, dove vivo, il candidato governatore dei Repubblicani è un funzionario delle forze dell'ordine che crede nella teoria del complotto detta costituzionalismo. Sostiene, cioè, una interpretazione della Costituzione secondo la quale il governo federale avrebbe poteri minimi, mentre la massima autorità sarebbe concessa agli sceriffi eletti su base locale. Ritengo che la maggioranza dei candidati al Congresso che continuano a sostenere QAnon ci credano davvero. E anche quelli che si sono smentiti mi pare che sostengano comunque l'approccio di concedere pieni poteri alla presidenza. La questione è che QAnon è un sistema di credenze profondamente autoritario. E David Newhart, scrittore e saggista statunitense, ha versato fiumi d'inchiostro proprio sulle teorie complottiste, in qualche modo va ad accarezzare un aspetto che anche Adrien Lafrance ha toccato, questo approccio quasi fideistico, anche a smontare, provavo a farlo con un ascoltatore o ascoltatrice prima, ma mi è stato risposto in malo modo e col turpiloquio, per cui non replico più. E dicevo, un approccio fideistico a queste teorie. Umberto scrive al 349-238-6666, probabilmente c'è anche un livello di alfabetizzazione basso in quella parte della popolazione americana che aderisce fanaticamente a teorie complottiste e cospirative, e a maggior ragione c'è una responsabilità della politica, quella a cui faceva riferimento David Newhart. O ci credi e allora si potrebbe dare una pacca sulla spalla, povero te, ma se non ci credi e lo utilizzi per fini elettorali, beh, allora altro che pacca sulla spalla, questo verrebbe da dire alla politica che strumentalizza questo tipo di fenomeni. Veniamo al presidente Donald Trump. Che cosa sta facendo in questa fase? Si è distanziato, si è avvicinato, ha piegato la teoria di QAnon ai suoi fini politici. Sentite cosa ne pensa David Newhart. Trump has done it two ways. He's retweeted QAnon material on his Twitter account. Trump ha sostenuto QAnon in due modi. Ha retweetato materiale di QAnon dal suo account, incluso l'hashtag WWG1WGA, che nel linguaggio di QAnon significa dove va uno di noi andiamo tutti. Inoltre, incalzato dai giornalisti, ha adottato un comportamento ambivalente, suggerendo di approvare QAnon perché i suoi adepti sono dalla sua parte. È un po' lo stesso comportamento rivolto ai suprematisti bianchi e ad altri gruppi di estrema destra. Così David Newhart. Allo stesso tempo voglio essere molto chiaro, è evidente che non è che il presidente Donald Trump si è inventato QAnon, però allo stesso tempo, l'avete sentito da Newhart, sembra strizzare l'occhiolino a questo movimento con una sorta di flirt un po' continuo. Sentite l'opinione su questo tema di Adrien Lafrance, caporedattrice di The Atlantic. Trump ha detto che non ne sa nulla di QAnon e credo che possa essere vero. Sono sicura però che le persone del suo entourage siano pienamente consapevoli di cosa sia QAnon e gli stessi figli di Trump hanno fatto dei riferimenti a Q. Quindi non so fino a che punto Trump sia davvero immerso nella galassia che ruota attorno a QAnon. Ma penso che quello di cui sia consapevole è quanto questo fenomeno gli possa essere utile. Quindi si ha questa strana contraddizione perché da un lato si tratta di una narrativa molto violenta e chiaramente pericolosa ed è una teoria del complotto con la quale un politico mainstream non vorrebbe mai avere a che fare. Ma dall'altro lato Trump nota come questo sistema di credenze sia in realtà un'espressione della sua base elettorale. Quando si guarda il diagramma di Venn, che mostra i più ferventi sostenitori di Trump e i più fedeli sostenitori di QAnon, si nota che è praticamente lo stesso gruppo di persone. Trump è nel punto dove non può davvero parlare contro QAnon perché è il suo elettorato. Si assiste quindi a questa sorta di flirt e calcolo politico fatto perché Trump ha bisogno di questo gruppo come parte della sua base elettorale. He needs this group as part of his base. Questa è la voce di Adrienne LaFrance di Atlantic. Adesso però, gentili ascoltatrici e ascoltatori, ve lo devo confessare, anch'io sono vittima di un feroce, benefico complotto ordito da Valera Bernardi, che a questo punto mi vuole chiudere il microfono. You're fired. You're fired. You're fired. Naturalmente ringrazio tutta la squadra di Nessun Luogo, voi per essere stati all'ascolto. Noi ci sentiamo la settimana prossima, domani ore 10 c'è il meglio di. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su aruba.it